22° canto dell'Inferno dalla Divina Commedia di Dante Alighieri. Registrazione di pubblico dominio effettuata per LibriVox da Filippo Gioachin. Inferno, 22° canto. Io vidi già cavalier muover campo e cominciare stormo a far lor mostra e talvolta partir per loro scampo. Corridor vidi per la terra vostra, o aretini, e vidi gir gualdane, fedir torneamenti e correr giostra, quando con trombe e quando con campane, con tamburi e con cenni di castella, e con cose nostrali e con istrane, né già con sì diversa cennamella cavalier vidi muover né pedoni né nave a segno di terra o di stella. Noi andavam con li 10 demoni. Ahi, fiera compagna, ma nella chiesa coi santi e in taverna coi ghiottoni. Pur alla pegola era la mia intesa, per veder della bolgia ogni contegno e della gente ch'entro v'era incesa. Come i delfini quando fanno segno ai marinar con l'arco della schiena che s'argomentin di campar lor legno, talor così, ad alleggiar la pena, mostrava alcun de peccatori il dosso e nascondea in men che non balena. E come all'orlo dell'acqua d'un fosso stanno i ranocchi pur col muso fuori, sì che celano i piedi e l'altro grosso, si stavan d'ogne parte i peccatori, ma come s'appressava Barbariccia, così si ritraen sotto i bollori. I vidi, e anco il cor me n'accapriccia, uno aspettar così, com'elli incontra, ch'una rana rimane e l'altra spiccia, e graffia can, che li era più di contra, gli arruncigliò le impegolate chiome e trasse il su che mi parve una lontra. I sapea già di tutti quanti il nome, sì li notai quando fuorono eletti e poi che si chiamaro attesi come. O Rubicante, fa che tu li metti gli unghioni addosso, sì che tu lo scuoi, gridavan tutti insieme i maladetti. E io, maestro mio, fa, se tu puoi, che tu sappi chi è lo sciagurato venuto a man degli avversari suoi. Lo duca mio li s'accostò al lato, domandollo ond'ei fosse, e quei rispuose: I fui del regno di Navarra nato, mia madre a servo d'un signor mi puose, che m'avea generato d'un ribaldo, distruggitor di sé e di sue cose. Poi fui famiglia del buon re Tebaldo, quivi mi misi a far baratteria di ch'io rendo ragione in questo caldo. E Ciriatto, a cui di bocca uscia d'ogne parte una sanna come a porco, li fe sentir come l'una sdruscia. Tra male gatto era venuto il sorco, ma Barbariccia il chiuse con le braccia e disse: staten là mentr'io lo inforco. E al maestro mio volse la faccia, domanda, disse, ancor se più disii saper da lui prima ch'altri il disfaccia. Lo duca dunque ordì: degli altri rii conosci tu alcun che sia latino sotto la pece? E quelli: i mi partii poco è da un che fu di là vicino, così foss'io ancor con lui coperto ch'i non temerei unghia né uncino. E Libicocco: troppo avem sofferto, disse, e preseli il braccio col runciglio, sì che stracciando ne portò un lacerto. Draghignazzo anco i volle dar di piglio giuso alle gambe, onde il decurio loro si volse intorno intorno con mal piglio. Quand'elli un poco rappaciati fuoro, a lui, ch'ancor mirava sua ferita, domandò il duca mio senza dimoro: chi fu colui da cui mala partita dii che facesti per venire a proda? Ed ei rispuose: fu frate Gomita, quel di Gallura, vasel d'ogne froda, ch'ebbe i nemici di suo donno in mano, e fe sì lor che ciascun se ne loda. Danar si tolse e lasciolli di piano, sì com'ei dice, e negli altri uffici anche barattier fu non picciol ma sovrano. Usa con esso donno Michel Zanche di Logodoro, e a dir di Sardigna le lingue lor non si sentono stanche. Omè, vedete l'altro che digrigna? I direi anche, ma i temo ch'ello non s'apparecchi a grattarmi la tigna. E il gran proposto, volto a Farfarello, che stralunava gli occhi per fedire, disse: fatti incostà, malvagio uccello! Se voi volete vedere o udire, ricominciò lo spaurato appresso, toschi o lombardi, io ne farò venire, ma stieno i malebranche un poco in cesso, sì ch'ei non teman delle lor vendette, e io, seggendo in questo loco stesso, per un ch'io son, ne farò venir sette, quand'io suffolerò, com'è nostro uso di fare allor che fuori alcun si mette. Cagnazzo a cotal motto levò il muso, crollando il capo, e disse: oh di malizia, ch'egli ha pensata per gittarsi giuso! Ond'ei, ch'avea l'acciuol a gran divizia, rispuose: malizioso son io troppo, quand'io procuro a mia maggior trestizia. Alichin non si tenne, e di rintoppo agli altri disse a lui: se tu ti cali, io non ti verrò dietro di galoppo, ma batterò sovra la pece l'ali. Lascisi il collo e sia la ripa scudo, a veder se tu sol più di noi vali. O tu che leggi, udirai nuovo ludo. Ciascun dall'altra costa gli occhi volse, quel prima, ch'a ciò fare era più crudo. Lo navarrese ben suo tempo colse, fermò le piante a terra e in un punto saltò e dal proposto lor si sciolse. Di che ciascun di colpa fu compunto, ma quei più che cagion fu del difetto, però si mosse e gridò: tu sei giunto! Ma poco i valse che l'ali al sospetto non potero avanzar. Quelli andò sotto e quei drizzò volando suso il petto. Non altrimenti l'anitra di botto, quando il falcon s'appressa, giù s'attuffa, ed ei ritorna su crucciato e rotto. Irato Calabrina della buffa, volando dietro li tenne, invaghito che quei campasse per aver la zuffa. E come il barattier fu disparito, così volse le artigli al suo compagno e fu con lui sopra il fosso ghermito. Ma l'altro fu bene sparvier grifagno ed artigliar ben lui, e amendue cadder nel mezzo del bogliente stagno. Lo caldo sghermitor subito fue, ma però di levarsi era niente, sì e avieno invischiate l'ali sue. Barbariccia con gli altri suoi dolente, quattro ne fe volar dall'altra costa, con tutti i raffi e assai prestamente di qua di là discesero alla posta, porserli uncini verso l'impaniati, ch'eran già cotti dentro dalla crosta. E noi lasciammo lor così impacciati. Fine del 22° canto dell'Inferno.